Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti da Roma New Disorder. Con voi e con loro ascolteremo sei brani dal disco Hollywood Burns, come ad esempio quello che abbiamo ascoltato. Il titolo si intitolava Sick Feeling As You. La vostra esperienza in studio di registrazione, le quali idee musicali che hanno poi realizzato e dato vita a questo disco. Bene, noi siamo fortunati da questo punto di vista ad avere un home studio e quindi realizzare un home recording. E quindi questo ci ha portato soprattutto ad avere tempi diversi rispetto a tutti gli altri gruppi musicali. Diciamo, abbiamo la possibilità di registrare la notte, il giorno, il fine settimana, la mattina. Diciamo in maniera tranquilla. Ecco. Esatto, tranquilla. Infatti anche la nostra etichetta di distribuzione, perché ricordiamo noi abbiamo un'etichetta di distribuzione che distribuisce in tutto il mondo, non ci ha fatto pressioni e soprattutto non ha vincolato il nostro lavoro. Diciamo, quello che produciamo è il nostro frutto, il nostro prodotto, senza nessun vincolo e senza nessuna alternativa. E soprattutto la cosa fondamentale è che i New Disorder sono nati e successivamente, nel giro di alcuni mesi, è nato il CD, quindi è proprio il frutto di un istante, si può dire. La prossima canzone per chi ci ascolta. Il pezzo si intitola Escape. In studio ancora con i New Disorder, recensioni varie, quali le più interessanti e cosa dicono del vostro album? Hollywood Burns, l'album Hollywood Burns ha ricevuto ad oggi 4-5 recensioni, Diciamo che anche con un pizzico d'orgoglio, tutte queste recensioni hanno comunque evidenziato degli elementi positivi. Ci hanno riconosciuto, per esempio, in alcuni casi il merito di riuscire ad accostare stili differenti fra loro, però in un amalgama omogeneo che rende tutto comunque molto personale, e questo ci rende appunto orgogliosi. Abbiamo anche apprezzato una recensione ultimamente che abbiamo ricevuto di un giornalista che affermava di non amare particolarmente il genere musicale, ma facendoci poi i complimenti sul come veniva concepito da noi questo nostro genere musicale, consigliava agli amanti di questo stile appunto di acquistare il nostro disco. E comunque, al di là delle recensioni comunque fatte da persone esperte del settore, noi e riscontriamo quotidianamente anche sul nostro MySpace tanti messaggi di persone, dei quasi 25.000 fan, questo dato lo do con orgoglio, che abbiamo sul nostro MySpace, che oltre 25.000 fan, che praticamente quotidianamente ci mandano messaggi di sostegno, di complimenti. Anche su iTunes, dove è presente il nostro disco, ci sono dei commenti, delle recensioni vere e proprie del disco fatte da persone che hanno acquistato il disco, molto positive. Quindi ecco, è un prodotto che sta riscuotendo un buon successo della critica, diciamo così. Prossimo track. Il pezzo si intitola Free Me From The Dark. Noi torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con il New Disorder. Voi restate sempre su Radio RCS. I was afraid to lose my mind, so scared of believing all I was fighting for. Crouching in the corner you found me.